Allora, Storace, è tutto vero, è confermato al 100%, è lei il candidato del centrodestra alla Regione Lazio? Sì, questa è stata l'indicazione, ora da costruita la coalizione e ci tufferemo in una entusiasmante, appassionante campagna elettorale. Credo che si possa ottenere un risultato straordinario, sovvertendo i pronostici della vigilia, come nel 2000. Cosa è successo che ha cambiato? Perché si parlava prima di Beatrice Lorenzin, poi forse appunto il passo indietro. Cioè, cosa ha cambiato le carte in tavola per la candidatura ufficiale sua? Guarda, 5 minuti fa ci siamo scambiati messaggi bellissimi con Beatrice, un fatto di in bocca al lupo, che credo che sia davvero sincero. È evidente che in 40 giorni bisogna fare una campagna elettorale sul territorio, approfittando anche della conoscenza di una persona, della notorietà, delle rilevazioni statistiche che sono state fatte nelle ultime ore hanno testimoniato che io questa partita la posso giocare. E quindi, diciamo, la scelta è avvenuta sulla base di un'indicazione di consenso potenziale.